Capitolo 15. Il signor Rochester me lo spiegò infatti alla prima occasione. Era un pomeriggio quando egli mi incontrò con Adele a passeggio per i campi e, mentre la bambina giocava col volano e col cane, egli mi pregò di seguirlo sul viale di faggi che s'apriva lì presso. Allora mi informò che Adele era figlia di una ballerina dell'opera francese, Céline Varenne, per la quale egli un tempo aveva nutrito ciò che chiamava una grande passione. A questa passione Céline aveva finto di corrispondere con amore ancora più ardente, così egli, pur brutto com'era, si era convinto di essere il suo idolo e aveva creduto che ella preferisse la sua taglia d'atleta all'eleganza dell'Apollo del Belvedere. Fui così lusingato, signorina Eyre, della preferenza della silfide francese per il suo gnomo inglese, che la alloggiai in un palazzo, le diedi servi, carrozza, scialli preziosi, trine, diamanti. In breve mi misi sulla via di rovinarmi nello stile accettato da tutti i cascamorti. Non ebbi nemmeno, sembra, l'originalità di battere una nuova via per giungere alla vergogna e alla rovina. Seguivo le orme altrui con stupida esattezza per non deviare di un pollice dal centro battuto. Ed ebbi, come mi meritavo, la sorte di tutti gli sciocchi. Andai da Céline una sera che non mi aspettava e non la trovai in casa. Faceva caldo ed io, stanco di passeggiare per Parigi, mi sedetti nel suo salottino, felice di respirare l'aria che l'aveva fino a poco prima consacrata con la sua presenza. No, esagero, non ho mai creduto che alitasse intorno a lei qualche virtù santificante. Era un profumo come di pastiglia, un profumo d'ambra e di muschio, non un odore di santità, quello che l'aveva lasciato dietro a sé. Il profumo dei fiori unito alle esalazioni delle essenze cominciava però a salirmi alla testa quando pensai di aprire la finestra e di uscire sul balcone. La notte era calma, serena, illuminata dalla luna, e nella via erano accesi i lumi a gas. Sul balcone era rimasta qualche sedia, mi sedetti e accesi un sigaro. Ne accenderò uno anche ora, se permette. Fece una pausa, durante la quale si tolse di tasca un sigaro e l'accese. Poi, dopo aver mandato nell'aria fredda e senza sole un soffio di fumo dell'Avana, continuò. Mi piacevano anche i dolci in quel tempo, signorina Eyre, e fumando sgranocchiavo confetti di cioccolata, mentre seguivo con lo sguardo gli equipaggi che passavano per quelle strade eleganti dirette all'opera poco lontana. A un tratto scorsi una lucida carrozza chiusa tirata da due superbi cavalli inglesi e, nella notte cittadina risplendente di luci, subito riconobbi la voiture che avevo regalato a Céline. Ella tornava e subito il mio cuore prese a battere con violenza contro la balaustra di ferro alla quale mi appoggiavo. La carrozza si fermò alla porta del palazzo. La mia fiamma, è la parola adatta per una donna di teatro, scese. Sebbene fosse tutta avvolta in un mantello, impiccio inutile in quella calda serata di giugno, riconobbi subito il suo piedino sotto l'orlo della veste, mentre lo posava a terra e sporgendomi dal balcone, stavo per dirle «Mon ange!» in un tono naturalmente che soltanto l'orecchio di un'innamorata poteva percepire, quando un'altra persona, pure mantellata, scese dalla carrozza dietro a lei, ma questa volta un tintinnio di speroni risuonò sul selciato e fu un cappello maschile a passare sotto l'arco della porte cochère. Non ha mai provato la gelosia, non è vero, signorina Eyre? Certo che no, ed è inutile chiederglielo visto che non conosce l'amore. Lei deve ancora provare questi due sentimenti. La sua anima dorme, finora non ha ricevuto l'urto che la desterà. Lei crede che tutta la vita debba fluire via tranquilla, come trascorsa fino a qui la sua giovinezza, lasciandosi cullare dalla corrente con gli occhi chiusi e le orecchie turate, senza vedere gli scogli che affiorano non lontano, senza udire il ribollire delle onde che si frangono alla loro base. Maledico e rammenti queste mie parole che un giorno lei giungerà ad una stretta tra le rocce dove il flusso della vita si infrangerà in un vortice tumultuoso e schiumeggiante e allora o lei finirà sbriciolata su quelle cime scabre oppure, sollevata da un'onda potente, si troverà a fluttuare in acque assai più calme, come è accaduto a me. Mi piace questa giornata, questo cielo d'acciaio, mi piace il volto immobile e severo che acquista la terra ammantata di gelo. Mi piace Thornfield, la sua antichità, il suo isolamento, i suoi boschetti abitati dalle cornacchie, vecchi alberi, la facciata grigia e la fila delle finestre buie che riflettono questo cielo metallico. Eppure in passato aborrivo tutto ciò, anche solo nel ricordo, evitavo questa casa come una casa maledetta e l'aborrisco ancora. Strinse i denti e tacque, percuotendo il suolo indurito con il piede. Sembrava in preda ad un pensiero odioso che lo tenesse così strettamente avvinto da impedirgli di avanzare. Stavamo risalendo il viale quando egli si fermò. Davanti a noi c'era il castello e sui suoi muri immerlati, egli levò uno sguardo quale mai prima né dopo ebbi a vedere in vita mia. Dolore, vergogna, ira, impazienza, disgusto e odio parvero lottare per un istante nella sua larga pupilla dilatata sotto le ciglia d'ebano. La lotta fu selvaggia e forse estrema, ma un altro sentimento sorse e trionfò, qualche cosa di cinico, di duro, di caparbio e di risoluto che placò la sua passione e pietrificò il suo viso. Egli continuò. Nel momento in cui ho taciuto, signorina Eyre, regolavo un conto con il mio destino, che era là, presso quel faggio abbattuto, come una delle streghe che apparirono Macbeth sulla landa di Forres. Amy Thornfield mi ha detto, alzando un dito e scrivendo poi nell'aria un monito che correva in lugubri geroglifici lungo tutta la facciata della casa, tra l'una e l'altra di finestre. Amalo se puoi, amalo se osi. Sì, l'amerò, ho risposto, oserò amarlo. E, aggiunse con aria torva, manterrò la parola, infrangerò gli ostacoli che mi impediscono d'essere felice e buono. Sì, buono, voglio essere migliore di quel che sono stato e di quello che sono, come la balena di Giobbe spezzò la lancia, il dardo e l'armatura, così. Gli ostacoli, che altri giudicano di ferro, io li abbatterò come paglia e legno fradicio. In quel momento Adele gli passò accanto, correndo dietro al suo volano. «Via!» le gridò aspramente. «Tienti lontana, bambina, o vai da Sophie!» Riprese a camminare in silenzio e allora io osai richiamarlo al suo racconto, dal quale all'improvviso aveva deviato. «Lasciò il balcone, signore?» domandai. «Quando vide rientrare la signora Varenne?» Mi aspettavo un rabuffo per quella domanda inopportuna, ma invece, riscotendosi dai suoi foschi pensieri, egli volse lo sguardo su di me e la sua fronte parve rischiararsi. «Già!» Céline, l'avevo dimenticata. Dunque, per riassumere, quando vidi la mia maliarda entrare in casa scortata da un cavaliere, mi parve di udire un sibilo e il verde serpente della gelosia, sorgendo in spire sinuose dal balcone illuminato dalla luna, mi si insinuò sotto la giubba e in un istante mi raggiunse il cuore. «Strano!» esclamò, divagando di nuovo. «È proprio strano che per simili confidenze io scelga una ragazza!» E più strano ancora è che lei mi ascolti tranquillamente, come se fosse la cosa più naturale di questo mondo che un uomo come me racconti la storia delle sue amanti a una giovane donna semplice ed inesperta come lei. Ma quest'ultima singolarità spiega la prima, come ho già detto. Con la sua aria grave, riflessiva e prudente, lei è fatta per ricevere i segreti altrui. Del resto, so con quale spirito sono entrato in comunione. So che è uno spirito refrattario al contagio del male, uno spirito singolare, forse unico. Per fortuna non intendo nuocergli, e anche se lo volessi non ci riuscirei. Più a lungo potremo conversare insieme, signorina Eyre, meglio sarà, poiché, mentre io non posso contaminarla, lei mi purifica. Dopo questa digressione, continuò. Rimasi sul balcone, pensando che sarebbero venuti nel salottino, e decisi di preparare loro un'imboscata. Tirai la tenda davanti alla finestra aperta, lasciando soltanto un piccolo spiraglio attraverso il quale poter vedere all'interno. Poi accostai le persiane, ma senza chiuderle, per udire il bisbiglio degli innamorati, e ritornai a sedere nel mio angolo mentre la coppia entrava. Il mio occhio era fisso sullo spiraglio. La cameriera di Céline entrò, accese un lume, lo pose sul tavolo e si ritirò. Allora potei vedere bene la coppia. Entrambi si tolsero il mantello ed eccola la Varenne, scintillante di sete e di gioielli, doni miei, naturalmente, e il suo compagno in uniforme di ufficiale. Ravvisai subito in lui un giovane visconte scapestrato e vizioso che ogni tanto incontravo in società e che non avevo mai pensato di poter odiare in quanto che lo disprezzavo troppo. Non appena l'ebbi riconosciuto, la gelosia non mi morse più il cuore perché nello stesso istante il mio amore per Céline si era spento. Una donna che mi tradiva per un simile individuo non meritava d'essere contesa, meritava soltanto d'essere disprezzata, meno di me peraltro che ero stato il suo zimbello. Cominciarono a parlare e la loro conversazione mi calmò del tutto. Frivola, mercenaria, senza cuore, senza spirito, quella conversazione sembrava fatta per annoiare più che irritare chi ascoltava. Sul tavolo vi era il mio biglietto da visita. Lo videro e questo lì portò a parlare di me. Nessuno dei due era abbastanza energico o spiritoso per malmenarmi a dovere, ma mi insultarono con la meschina volgarità della loro natura. Specialmente Céline, che enumerava non senza umorismo i miei difetti fisici o deformità, come li chiamava lei. Céline, che era solita esprimermi la sua fervente ammirazione per quella che definiva la mia beauté mâle, la mia bellezza maschia, diversamente da lei, signorina Eyre, che mi ha detto sul viso al nostro secondo incontro che non ero bello. Questo contrasto mi colpì allora e Adèle veniva di nuovo correndo verso di noi. Signor Jean Lavert, che è arrivato l'intendente, vuol parlarle, annunciò la bambina. In questo caso bisogna che abbrevi. Apersi la finestra e avanzai verso i due amanti. Sbarazzai Céline della mia protezione, invitandola a lasciare subito il palazzo. Le offersi del denaro per i bisogni più immediati e senza curarmi dei suoi strilli, delle sue proteste, delle sue preghiere e convulsioni, presi appuntamento con il visconte per un incontro al Bois de Boulogne. Il mattino seguente ebbi il piacere di battermi con lui e gli lasciai una pallottola in una delle sue braccia scarne, pallide e deboli come l'ala di un pollo intisichito. Dopodiché ritenni di aver saldato il conto con quella ciurmaglia. Disgraziatamente, 6 mesi prima la Varenne mi aveva dato questa bambinetta, Adèle, che la affermava essere mia figlia, e forse può anche esserlo, benché io non ritrovi nel suo volto nessuna prova di sì, malaugurata paternità. Pilota mi assomiglia di più. Qualche anno dopo la nostra separazione, la madre abbandonò la bambina e fuggì in Italia con un cantante o con un musicista. Non riconobbi ad Adele alcun diritto naturale ad essere mantenuta da me, come non gliene riconosco oggi, poiché non sono suo padre, ma quando seppi che era stata abbandonata, decisi di sottrarla al fango di Parigi e la trapiantai qui perché crescesse onesta sul suolo salubre della campagna inglese. La signora Fairfax ha affidato a lei il compito di educarla, ma ora che sa che la bambina è la figlia illegittima di una ballerina francese, forse considererà con altri occhi sia il suo posto che la sua alunna. Forse uno di questi giorni verrà a dirmi che ha trovato un'altra occupazione e che mi prega di cercare una nuova istitutrice. No, signore, Adèle non è responsabile delle colpe di sua madre né delle sue, signor Rochester. Io le sono sinceramente affezionata e ora che so che in certo qual modo è senza genitori, poiché sua madre l'ha abbandonata e lei, signore, non la riconosce, le vorrò ancora più bene. Come potrei preferire la capricciosa erede di una ricca famiglia che odierebbe l'istitutrice come un essere noioso e inopportuno a una piccola orfana che invece s'appoggia a me come ad un'amica? Oh, se vede la cosa sotto questo aspetto. Beh, ora devo rientrare in casa e anche lei, perché si fa buio. Ma io rimasi fuori ancora un poco con Adele e Pilota, correndo e giocando con loro. Quando rientrammo in casa, tolsi il berretto e il mantello alla bambina e la feci sedere sulle mie ginocchia, tenendomela vicino per un'ora, durante la quale la lasciai chiacchierare a suo piacere, le concessi anche di prendersi alcune piccole libertà alle quali si abbandonava facilmente quando era vezzeggiata e che tradivano in lei una leggerezza di carattere ereditata probabilmente dalla madre, tanto difficile trovarne traccia in un temperamento inglese. Però aveva anche le sue qualità ed io ero disposta ad apprezzare al massimo tutto ciò che vi era di buono in lei. Cercai nei suoi lineamenti e nel suo portamento una somiglianza con il signor Rochester, ma non la trovai, né una linea né un'espressione in lei annunziava quella parentela. Me ne dispiacque per lei, perché se appena gli avesse rassomigliato, egli le avrebbe voluto bene. Soltanto quando mi fui ritirata per la notte in camera mia, ripensai al racconto del signor Rochester. Come gli aveva detto, non vi era nulla di straordinario nella sua narrazione. La passione di un ricco inglese per una ballerina francese, il tradimento di questa, erano cose che in società dovevano succedere ogni giorno. Ma vi era qualche cosa di decisamente strano nel turbamento che lo aveva colto proprio mentre diceva d'aver ritrovato la calma interiore e di poter nuovamente gustare il suo soggiorno nella vecchia casa. Meditai un istante su quell'incidente, ma poi, giudicandolo per il momento inesplicabile, lo dimenticai per mettermi a pensare al contegno del signor Rochester verso di me. Il segreto che aveva creduto bene di rivelarmi voleva forse essere un tributo alla mia discrezione. In ogni modo, io lo consideravo e l'accettavo come tale. Da alcune settimane i suoi modi verso di me erano più uniformi. Sembrava che la mia presenza non lo disturbasse e non mi trattava più con gelida alterigia. Quando mi incontrava ne pareva contento perché aveva sempre una parola gentile e talvolta un sorriso per me. Quando mi invitava ad andare da lui mi riceveva cordialmente e questo mi provava che avevo realmente il potere di divertirlo e che le nostre conversazioni serali, se per me erano istruttive, per lui erano piacevoli e per questo le ricercava. Io parlavo poco, ma mi piaceva ascoltarlo. Egli era per natura comunicativo e amava far balenare davanti a una mente ignara qualche scena del mondo. Non scene corrotte e atti malvagi, ma fatti interessanti perché singolari o perché si verificavano su vasta scala. Provavo un sottile godimento ad assorbire le nuove idee che egli mi offriva, ad immaginare i quadri a me ignoti che egli mi descriveva, a seguirlo col pensiero attraverso le nuove regioni che rivelava alla mia mente, senza mai turbarmi con allusioni spiacevoli o inopportune. Le sue maniere franche mi liberarono presto da ogni impaccio o disagio. L'amichevole schiettezza, corretta quanto cordiale, con la quale mi trattava, mi avvicinava a lui. In certi momenti lo consideravo più come un amico che come un padrone, eppure a volte era ancora imperioso, ma non ci facevo caso perché vedevo bene che era il suo modo di essere. Questo nuovo interesse aggiunto alla mia vita mi rese così felice e soddisfatta che cessai di desiderare una famiglia. L'esile falce del mio destino sembrava ingrandirsi, i vuoti della mia esistenza si colmarono, la mia salute ne risentì e acquistai peso e vigore. Era sempre brutto ai miei occhi, signor Rochester. No, lettore, la gratitudine e certe dolci e gradevoli associazioni di idee facevano sì che nulla mi piacesse più del suo volto. La sua presenza in una stanza era più confortante per me di un buon fuoco, però non avevo dimenticato i suoi difetti, né lo avrei potuto, perché me li metteva in ogni descrizione. E in fondo al cuore io sapevo che la sua grande bontà verso di me era bilanciata da un'ingiusta severità per molti altri. Inoltre era bizzarro ed umore capriccioso. Più di una volta, quando mi mandava a chiamare in biblioteca perché gli facessi un po' di lettura, lo avevo trovato seduto al tavolo con la testa china sulle braccia, e quando al mio ingresso la rialzava, gli avevo visto sul viso un'espressione cupa e quasi cattiva. Ma credevo che la sua durezza, la sua bizzarria, il suo umore scontroso e le sue colpe passate, dico passate perché ora ne sembrava guarito, fossero originate da qualche crudele sventura. Ero convinta che per natura egli fosse un uomo di tendenze migliori, di principi più eletti, di gusti più puri di quello che le circostanze, l'educazione e la sorte avevano sviluppato, instillato e incoraggiato in lui. Credevo che fosse di stoffa eccellente, anche se per il momento smunta e sciupata, e devo confessare che il suo dolore, qualunque esso fosse, mi affliggeva e che avrei dato molto per attenuarlo. Sebbene fossi a letto da un poco e avessi spento la candela, non riuscivo a dormire pensando all'espressione che avevo visto nei suoi occhi quando si era fermato nel viale, dicendo che il destino lo aveva affrontato, sfidandolo ad essere felice a Thornfield. E perché non dovrebbe esserlo? Mi domandavo. Che cosa lo allontana da questa casa? Ne ripartirà presto? La signora Fairfax ha detto che raramente si tratteneva qui più di 15 giorni e ora, cioè, da 2 mesi. Se parte, il cambiamento sarà triste. Supponiamo resti assente la primavera, l'estate e l'autunno. Anche il sole e le belle giornate non porteranno allegria qua dentro. Non so se dopo queste riflessioni mi fossi addormentato o no, ma uscii bruscamente da quel dormiveglio udendo proprio sopra la mia testa, o così mi parve, un vago mormorio, lugubre e strano. Mi rammaricai di aver spento il lume perché la notte era buia e mi sentivo oppressa. Mi misi a sedere sul letto tendendo l'orecchio, ma il rumore era cessato. Cercai allora di riaddormentarmi, ma il cuore mi batteva con violenza. La mia tranquillità interiore era svanita. L'orologio giù nell'ingresso suonò le 2 e in quel momento mi parve che una mano sfiorasse la mia porta, come cercando a tastoni la via nel buio e largo corridoio. «Chi è?» domandai. Nessuno rispose ed io mi sentii gelare dalla paura. Pensai che potesse essere pilota, il quale, quando trovava aperta la porta della cucina, spesso saliva per accucciarsi davanti alla camera del signor Rochester. Ve l'avevo veduto io stessa più di una volta la mattina. Questa idea mi calmò un poco e mi adagiai di nuovo sotto le coperte. Il silenzio ricompone i nervi, poiché ora la casa era di nuovo immersa nella quiete, il sonno mi tornò. Ma era destino che quella notte non dovessi riposare. Un sogno stava già per insinuarsi sotto le mie palpebre quando fu messo in fuga da qualche cosa di terrificante. Era un riso diabolico, soffocato, profondo, che parve echeggiare proprio contro la porta di camera mia. La testa del letto ne era poco distante e per un momento credetti che l'essere demoniaco che aveva manifestato la sua presenza fosse al mio capezzale. Mi alzai, mi guardai attorno, ma non vidi nulla. Il suono innaturale echeggiò di nuovo e allora capii che proveniva dalla galleria. Il mio primo impulso fu di correre alla porta e metterci il chiavistello. il secondo di chiedere di nuovo chi è? Udii un gemito basso e gorgogliante, poi un rumore di passi allontanarsi verso il fondo della galleria, dove era la scala che saliva al terzo piano. Da poco tempo quella scala era stata chiusa da una porta che ora sentì aprirsi e richiudersi, poi tutto tornò nel silenzio. Che fosse Grace Poole? È forse pazza, pensai. Non voglio restar più sola, non posso, andrò a svegliare la signora Fairfax. Mi infilai un vestito e mi avvolsi nello scialle e tirando il chiavistello con mano tremante apersi la porta. Vidi lì fuori una candela accesa e un'altra più lontano sopra il tappeto della galleria. Mi fui meravigliata, ma la mia meraviglia crebbe quando mi accorsi che l'aria era pesante e densa di fumo. Mentre mi guardavo attorno per capire di dove venissero quelle grigie volute, un forte odore di bruciato mi ferì le nari. Qualche cosa scricchiolò. Era una porta aperta e quella porta era del signor Rochester, di dove appunto usciva una nube di fumo. Non pensai più a Grace Poole, né alla risata, né alla signora Fairfax. In un attimo mi trovai nella stanza. Lingue di fiamme salivano dal letto, le cui cortine ardevano, e in mezzo a quel bagliore e a quel fumo il signor Rochester giaceva immobile, immerso in un sonno profondo. «Si svegli!» gridai, scuotendolo, ma egli, bofonchiando qualche cosa, si voltò dall'altra parte. Il fumo lo aveva quasi stupidito. Non c'era un momento da perdere. Il fuoco si era appiccato anche alle lenzuola. Corsi a prendere brocca e bacinella. Per fortuna, l'una era alta e l'altra larga e fonde, d'ambedue erano piene d'acqua. Le sollevai e inondai il letto e colui che vi giaceva. Poi corsi in camera mia a prendere altra acqua, che rovesciai di nuovo sopra le coperte, riuscendo infine, con l'aiuto di Dio, a spegnere l'incendio. Il crepitio delle fiamme morenti, il rumore che fece la brocca cadendomi di mano e soprattutto l'abbondante doccia che gli avevo fatto finirono per svegliare il signor Rochester. Mi accorsi che era desto, sebbene il buio non mi permettesse di vederlo, dalle imprecazioni che lanciò nel trovarsi in un lago. «C'è un'inondazione!» gridò. «No, signore», risposi, «c'è stato un incendio. Si alzi, la prego, il fuoco è stato estinto. Vado a prendere un lume». «In nome di tutte le fate della cristianità, e lei, Jane Eyre?» esclamò. «Che cosa mi ha fatto, strega? Chi c'è oltre a lei in camera mia? Aveva deciso di farmi annegare?» «Vado a prendere il lume, signore, e in nome del cielo si alzi. Qualcuno ha attentato alla sua vita e non scopriremo mai abbastanza presto chi sia stato e perché l'abbia fatto». «Eccomi alzato, ma può essere rischioso andare a prendere il lume. Aspetti un momento, che trovi i vestiti, se sono ancora asciutti. Ah, ecco la vestaglia. Corra adesso!» Corsi fuori e ritornai con la candela che era rimasta nella galleria. Egli me la tolse di mano e, tenendola alta, esaminò il letto annerito e bruciacchiato, le coperte inzuppate, il tappeto che galleggiava in una pozza d'acqua. «Ma che cosa è accaduto? Chi è stato?» domandò. In poche parole gli raccontai quello che sapevo, parlandogli della strana risata che avevo udito nella galleria, dei passi sulla scala del terzo piano, del fumo e dell'odore di bruciato che mi avevano condotto in camera sua, dello stato in cui l'avevo trovato e di come infine gli avessi rovesciato addosso quant'acqua potevo. Egli mi ascoltò in silenzio, serio e grave, e mentre parlavo il suo viso esprimeva più ansietà che meraviglia. Non parlò nemmeno quando ebbi finito il mio racconto. «Devo chiamare la signora Fairfax?» domandai. «La signora Fairfax? No, perché diavolo vuol chiamarla? Che cosa può fare? La lasci dormire. Allora sveglierò Lia, John, sua moglie. Niente affatto. Lei resterà qui. Vedo che ha uno scialle, ma se sentisse freddo prenda il mio mantello. Eccolo, se lo mette addosso e si sieda in questa poltrona, così. Ora appoggi i piedi sullo sgabello per tenerli all'asciutto. La lascerò sola per qualche minuto. Prendo la candela, ma lei rimanga qui fino al mio ritorno e senza fare rumore. Vado a fare una visita al terzo piano. Non si muova, mi raccomando, e non chiami nessuno». Uscii ed io seguii con gli occhi il lume che si allontanava. Egli percorse in punta di piedi la galleria, schiuse pian piano la porta della scala, la richiuse dietro a sé e l'ultimo barlume di luce svanì. Rimasi nel buio più completo. Tesi l'orecchio, ma tutto era silenzio. Trascorse un po' di tempo e cominciavo ad essere stanca. Sentivo freddo, nonostante il mantello, e dal momento che non dovevo rendermi utile, non vedevo una ragione per rimanere lì ferma al buio. Stavo già per disobbedire agli ordini del signor Rochester, ciò che probabilmente mi avrebbe valso i suoi rimproveri, quando un debole chiarore baluginò di nuovo sulla parete della galleria e udii sulla stuoia il fruscio dei suoi piedi scalzi. «Speriamo che sia lui», mi dissi, «e non qualcun altro». Ricomparve, pallido in viso e con lo sguardo cupo. «Ho scoperto tutto», disse, posando la candela sopra il portacatino, «ed è come avevo immaginato». «Come, signore?» Non rispose, ma incrociando le braccia, rimase con lo sguardo fisso a terra. Dopo un poco mi domandò con una strana voce, Ha veduto qualche cosa quando ha aperto la porta della sua camera? No, signore, soltanto il candeliere sulla stuoia. Ma ha udito un riso strano, non le era già capitato di sentirlo? Sì, signore, c'è una donna qui, una cucitrice che si chiama Grace Poole. È lei che ride in quel modo, deve essere un tipo bizzarro. Sì, Grace Poole, l'ha indovinato. E come dice, è una donna bizzarra, molto bizzarra. Ebbene, rifletterò su quello che è accaduto. Intanto sono contento che lei ed io siamo soli a saperlo. Lei non è pettegola e quindi starà zitta. Penserò io a spiegare il perché di questo e accennò al letto bagnato e bruciacchiato. Lei torna in camera sua. Il divano della biblioteca mi servirà benissimo per il resto della notte. Del resto sono quasi le 4, tra un paio d'ore i servi saranno alzati. Allora, buonanotte, signore, dissi alzandomi. Sembrò sorpreso e io lo guardai a mia volta meravigliata perché egli stesso mi aveva detto di andare. Come? Esclamò. Mi lascia già? E in questo modo? Mi ha detto che lo potevo, signore, ma non senza salutare, non senza una parola cordiale, insomma, non in modo così brusco e freddo, ma come? Mi ha salvato la vita, mi ha strappato una morte orribile e ora mi lascia come se fossimo due estranei, mi dia almeno una stretta di mano. Mi stese la sua e io gli diedi la mia, che gli prese prima con una e poi con ambo le mani. Mi ha salvato la vita e io sono felice di avere contratto con lei questo debito immenso. Non posso dire di più, mi riuscirebbe intollerabile di avere un simile obbligo verso qualunque altra creatura vivente, ma verso di lei è un'altra cosa. Che lei sia mia creditrice non mi pesa, Jane. Tacque, fissandomi. Altre parole gli tremavano visibilmente sulle labbra, ma la voce gli mancò. Di nuovo buonanotte, signore, ma in questo caso non vi sono debiti, né obblighi, né fardelli, né creditori. Sapevo, riprese egli, che un giorno o l'altro lei mi avrebbe fatto del bene. L'ho letto nei suoi occhi la prima volta che la vidi. Non per nulla la sua espressione e il suo sorriso mi... si interruppe. Mi colmarono il cuore di gioia, concluse rapidamente. La gente parla di simpatie naturali e di geni benefici, ma vi è un grano di verità nelle leggende più stravaganti. Mia cara, cara protettrice, buonanotte. Vibrava nella sua voce un vigore insolito e negli occhi gli ardeva una strana fiamma. Il caso ha voluto che fossi desta e ne sono felice, dissi ritirandomi. Come? Vuole andarsene? Ho freddo, signore. Freddo? Ha ragione, con i piedi a guazzo. Vada, Jane, vada. Ma tratteneva sempre la mia mano e non riuscivo a liberarmi. Ricorsi a un espediente. Mi pare di sentir muovere la signora Fairfax, dissi. Mi lasci allora. Le sue dita allentarono la stretta e io corsi via. Tornai a letto, ma non pensai a dormire. Sorgeva l'alba che ancora mi sembrava di galleggiare su un mare azzurro, ma agitato, sballottata e sospinta ora da torbidi risucchi, ora da onde chiare. Al di là di quel mare infuriato, mi sembrava ogni tanto di intravedere un lido dolce come le colline di Biula, e di quando in quando una brezza destata dalla speranza sospingeva trionfalmente l'animo mio verso la meta. Ma non potevo raggiungerla nemmeno con la fantasia, perché un vento contrario che spirava dalla terra mi respingeva di continuo tra le onde. Il buon senso voleva resistere al delirio, la saggezza opporsi alla passione. Troppo agitata per riposare, mi alzai appena spunto il giorno. Capitolo 16. Il giorno che seguì quella notte insonne, temevo e desideravo al tempo stesso di incontrare il signor Rochester. Desideravo udire la sua voce, ma temevo di vedere il suo sguardo. Nelle prime ore del mattino mi aspettavo di vederlo giungere da un momento all'altro. Non era sua abitudine entrare nel nostro studio, ma qualche volta vi facevo una capatina e presentivo che quel giorno ci sarebbe venuto. Ma la mattina trascorse come al solito, nulla venne a interrompere le lezioni di Adele e soltanto subito dopo colazione udii un tramestio nella camera del signor Rochester e riconobbi le voci della signora Fairfax, di Lia, della cuoca, cioè della moglie di John, e persino l'accento gutturale di quest'ultimo. Che benedizione! Esclamavano, che il padrone non sia bruciato nel suo letto. È sempre pericoloso tenere il lume acceso di notte. Per fortuna ha avuto la presenza di spirito di pensare alla brocca, ma perché non ci ha svegliati? Speriamo che ora non prenda freddo a dormire sul divano, e altre frasi del genere. Alle chiacchiere seguì un energico strofinio di spazzole, scope, strofinaci che riparavano i danni della notte, e quando, all'ora di cena, passai davanti alla camera del padrone per scendere in sala, attraverso la porta aperta, vidi che tutto era di nuovo in ordine. Mancavano soltanto i cortinaggi del letto e Lia, in piedi su di una sedia davanti alla finestra, lavava i vetri anneriti dal fumo. Stavo per chiamarla perché ero curiosa di sapere quale spiegazione era stata data dell'incidente, quando, varcando la soglia, vidi un'altra persona nella camera. Una donna seduta accanto al letto che cuciva le frange a un paio di tende nuove. Quella donna era Grace Poole. Seria e taciturna, come sempre, vestita di scuro, con un grembiule a scacchi e un fazzoletto bianco incrociato sul petto e la cuffia sui capelli, era intenta al suo lavoro, che sembrava assorbire tutti i suoi pensieri. Sulla sua fronte ottusa e sui suoi tratti rozzi non vi era traccia né del pallore né della disperazione che ci si aspetterebbe di trovare sul volto di una donna che ha tentato un assassinio e che, fallito il suo intento, è stata raggiunta ed accusata nel suo nascondiglio, come io credevo, proprio da chi doveva essere la sua vittima. Ero confusa e perplessa. Ella alzò gli occhi mentre la guardavo. Né un tremito, né un pallore, né un rossore rivelò in lei la commozione, la coscienza della colpa, né la paura d'essere denunziata. Disse: «Buongiorno, signorina», col suo solito tono breve e flemmatico, e raccogliendo un altro po' di frangia e di fettuccia continuò a cucire. «Voglio metterla alla prova», pensai, non potendomi persuadere che fosse così impenetrabile. «Buongiorno, Grace», dissi. «Che cosa è accaduto? Mi pare di aver sentito i servi parlottare qui dentro tutti insieme, poco fa». «Il padrone voleva leggere a letto ieri sera. Si è addormentato con il lume acceso e il cortinaggio ha preso fuoco. Per fortuna si è svegliato prima che anche le coperte fossero in fiamme ed è riuscito a spegnere l'incendio con l'acqua della brocca». «È strano», dissi a voce più bassa, poi guardandola fissa. «Ma il signor Rochester non ha chiamato aiuto? Nessuno l'ha sentito muoversi?» Ella alzò di nuovo gli occhi su di me e questa volta l'espressione era più attenta. Mi esaminò con aria circospetta e poi rispose: «La servitù dorme lontano da qui, è difficile che abbiano potuto sentire. Le camere più vicine a quella del padrone sono la sua, signorina, e quella della signora Fairfax. Ma la signora dice di non aver udito nulla. Quando si invecchia si ha il sonno duro». Tacque e poi aggiunse con finta indifferenza e sempre con un accento particolare: «Ma lei è giovane, signorina, e dovrebbe avere il sonno leggero. Ha forse sentito qualche rumore?» «Sì», risposi abbassando la voce per non essere intesa da Lia, che stava ancora lavando i vetri. «E in un primo momento ho creduto che fosse Pilota, ma Pilota non ride e sono sicura di aver udito una risata molto strana». Ella prese un'altra gugliata di filo, lo incerò con cura, lo infilò nel lago con mano ferma e poi osservò tranquillamente: «Non credo, signorina, che il nostro padrone si sia messo a ridere mentre era in quel pericolo. Lei deve esserselo sognato». «Non stavo sognando», risposi vivamente, indignata dalla sua impudenza. Ella tornò a fissarmi con lo stesso sguardo scrutatore e intento. «Lo ha detto al padrone che ha sentito ridere?» mi chiese. «Non ho avuto occasione di vederlo stamane. Non ha pensato di aprire la porta e guardare nella galleria?» Ora era lei che interrogava, forse per strapparmi particolari che non volevo dare, e mi venne l'idea che se avesse scoperto che io conoscevo o sospettavo il suo delitto, chissà quale tiro maligno avrebbe escogitato per vendicarsi di me. Così ritenni prudente stare in guardia. «Al contrario», dissi, «ho messo il chiavistello». «Non ha l'abitudine di metterlo prima di andare a letto?» «Demonio», pensai, «vuol conoscere le mie abitudini per architettare il suo piano». L'indignazione fu di nuovo più forte in me della prudenza e risposi con asprezza: «Fin qui ho dimenticato spesso quella precauzione perché non la credevo necessaria. Non pensavo si dovesse temere alcun pericolo a Thorfield, ma per il futuro», aggiunsi marcando ogni parola, «veglierò sulla mia sicurezza». «E farà bene», rispose. «I dintorni sono tranquillissimi e non ho mai sentito che in questa casa siano entrati ladri, sebbene si sappia che ci sono valori ingenti soltanto in argenteria e che la servitù per una villa così grande è poco numerosa, perché il padrone l'abita di rado e anche quando ci viene, essendo scapolo, non ha bisogno di molto personale, ma credo sia sempre meglio cedere nella prudenza. Si fa presto a tirare un chiavistello ed è bene avere una porta ben chiusa tra noi e quello che può succedere di fuori. Molte persone, signorina, preferiscono rimettersi alla provvidenza, ma io sono del parere che la provvidenza non ci dispensa dal vegliare su noi stessi, anzi, ci benedice se lo facciamo con discrezione». E qui concluse la sua arringa, lunga per lei, e pronunziata con la voce pacata di una quacchera. La meraviglia mi rendeva muta di fronte alla miracolosa padronanza di se stessa e alla profonda ipocrisia di quella donna, quando entrò la cuoca. «Signora Poole», disse rivolgendosi a Grace, «la cena dei domestici è quasi pronta, vuol scendere?» «No, mi mandi qui il mio boccale di birra e la porzione di budino, li porterò di sopra». «Vuole una fetta di carne?» «Una fetta sola e un boccone di formaggio». «E il ragù?» «No, non importa per ora, scenderò io prima dell'ora del tè e lo farò da me». La cuoca mi disse che la signora Fairfax mi aspettava e scesi subito. L'enigmatico carattere di Grace turbava tanto la mia mente che udii appena la narrazione fattami durante il pranzo dalla signora Fairfax dell'avvenimento della notte. Mi chiedevo soprattutto chi fosse Grace in quella casa e come mai non l'avessero perlomeno licenziata. La notte prima il signor Rochester mi aveva quasi dichiarato d'essere convinto che la colpevole era lei. Quale causa misteriosa gli impediva di denunziarla? Perché aveva ingiunto anche a me di tacere? Come mai un signor altero, audace e vendicativo come lui era caduto in potere di una delle sue serve? E a tal punto che persino se quella serva attentava alla sua vita, egli non osava accusarla apertamente, tantomeno punirla. Se Grace fosse stata giovane e bella, avrei potuto credere che il signor Rochester fosse influenzato da sentimenti più teneri che il timore o la prudenza, ma bastava guardarla, sgraziata com'era ormai anziana, per rendersi conto che tale supposizione era del tutto assurda. Tuttavia, riflettei, un tempo è stata giovane e deve esserlo stata quando lo era anche il padrone. La signora Fairfax mi ha detto che è qui da molti anni. Non credo che sia mai stata bella, ma forse possiede qualità che compensano la mancanza di attrattive fisiche. Il signor Rochester ha un debole per tutto ciò che è eccentrico e bizzarro, e bizzarra se non altro Grace lo è senza dubbio. Forse un capriccio, una fantasia non impossibile in una natura così ribelle e impetuosa l'ha messo nelle mani di quella donna? Forse ella esercita su di lui un'influenza segreta, risultato della sua sventatezza giovanile, della quale egli non sa liberarsi né osa disdegnarla. Ma arrivata a questo punto delle mie congetture, il brutto viso quadrato, piatto e duro di Grace Poole mi si presentò così nitidamente davanti agli occhi che pensai, no, è impossibile. La mia supposizione non ha alcun fondamento. Pure, insinuò la voce segreta che tutti noi abbiamo in cuore, nemmeno tu sei bella e forse al signor Rochester non dispiaci, almeno così ti è parso spesso, anche la notte scorsa. Ricordi le sue parole, il suo sguardo, la sua voce? Ricordavo tutto. Quel linguaggio, quegli occhi, quell'accento rivissero un istante dentro di me mentre mi trovavo nella sala di studio con Adele. La bambina disegnava. Mi chinai su di lei per dirigerle la mano ed ella mi guardò, leggermente sorpresa. «Qu'avez-vous, mademoiselle?» mi chiese. «Vos doigts tremblent comme la feuille et vos joues sont rouges. Mais rouges comme des cerises. E perché mi son chinata?» Adele riprese a disegnare e io a meditare. Cercai di scacciare dalla mente l'odiosa supposizione che vi si era annidata su Grace Poole perché mi disgustava. Mi confrontai con lei e vidi che eravamo ben diverse. Bessie Leven mi aveva detto che sembrava una signora ed era vero, e il mio aspetto era molto migliorato da quando Bessie mi aveva veduta. Ero ingrassata, avevo il viso roseo, ero più fresca, più gaia, più animata, perché avevo speranze più vaste ed interessi più vivaci. «È già sera», mi dissi guardando verso la finestra. «Non ho sentito né la voce né il passo del signor Rochester oggi, ma certamente lo vedrò prima di notte. Questa mattina temevo di incontrarlo, ma ora lo desidero perché l'attesa è stata così lunga che ora comincio ad essere impaziente». Quando la sera fu davvero scesa e Adele mi lasciò per andare a trastullarsi con Sophie, la mia impazienza crebbe. Tendevo l'orecchio sperando di sentir suonare il campanello del salotto. Aspettavo ad ogni momento di veder comparire Lia con un messaggio del padrone. Mi sembrava ogni tanto di udire il passo di quest'ultimo e mi avvicinavo alla porta, sperando che si aprisse per lasciare entrare il signor Rochester. Ma la porta rimaneva chiusa e dalla finestra entrava solamente il buio. Tuttavia non era ancora tardi. Spesso egli mi mandava a chiamare tra le 7 e le 8 e non erano che le 6. Non mi avrebbe delusa proprio quella sera che avevo tante cose da comunicargli. Volevo parlargli di nuovo di Grace Poole per sentire cosa avrebbe risposto. Volevo chiedergli molto semplicemente se davvero credeva che fosse lei l'autrice dell'odioso attentato della notte scorsa e se lo credeva perché lo teneva segreto. Poco mi importava di correre il rischio di infastidirlo con la mia curiosità. Sapevo come blandirlo dopo averlo irritato ed era questo un piacere che assaporavo con delizia anche se un istinto sicuro mi tratteneva dall'andare troppo oltre. Mi divertivo a provocarlo per provare a me stessa il mio potere, ma non mi arrischiavo mai al di là di un certo limite, pur senza mai apparire irrispettosa né dimentica della mia posizione in casa sua, discutevo con lui liberamente di qualunque argomento con soddisfazione reciproca. Finalmente un passo risuonò sulla scala e Lia comparve, ma soltanto per dirmi che il tè era pronto nel salottino della signora Fairfax, dove mi recai subito, felice, di scendere a pian terreno perché così mi sarei sentita più vicina al signor Rochester. Lei ha bisogno di una tazza di tè, mi disse la buona signora non appena mi vide. Ha mangiato così poco a pranzo che temo che lei oggi non stia bene. Sembra agitata, febbricitante. Oh no, sto benissimo. Allora me lo proverà mangiando con appetito. Può riempire la teiera mentre termino questo giro di calza? Quando ebbe finito, si alzò e chiuse le imposte che aveva tenuto aperte fino allora per godere l'ultima luce del giorno, ma ormai l'oscurità della sera si faceva più densa ogni minuto. È una bella notte, disse accostando i vetri, anche se non ci sono stelle. Il signor Rochester ha avuto una buona giornata per il suo viaggio. Per il suo viaggio? Non sapevo che dovesse partire. Sì, è partito subito dopo colazione per andare a Lia, dove risiede il signor Easton, a 10 miglia oltre Millcote. Credo che vi sia riunita una compagnia numerosa, Lord Ingram, il signor George Lynn, il colonnello Dente e altri ancora. Lo aspetta di ritorno per questa sera? No, e nemmeno domani. È probabile che resti assente una settimana o forse più. Quando i signori si riuniscono, sono circondati da tanta eleganza e buon umore, hanno a disposizione tanti svaghi, tante cose piacevoli che non hanno fretta di separarsi. In quelle riunioni i più ricercati sono gli uomini. E il signor Rochester è così amabile e divertente in società che credo sia il beniamino di tutti. Le signore hanno un debole per lui, anche se il suo aspetto non sembra dei più adatti per far colpo su di loro, ma probabilmente il suo ingegno e le sue qualità, forse anche la sua ricchezza e la sua nascita, fanno dimenticare una scarsa avvenenza fisica. Vi sono delle signore, Alia? La signora Easton e le sue tre figliole, ragazze molto eleganti. Poi vi sono le signorine Blanche e Mary Ingram, bellissime donne, pare. Io ho visto Blanche 6 o 7 anni fa, quando aveva 18 anni. Venne qui per un ballo dato dal signor Rochester a Natale. Se avesse visto la nostra sala da pranzo quel giorno, tutta decorata e illuminata, ci saranno state una cinquantina di persone tra signore e signori, tutti delle migliori famiglie della contea, eh? E la signorina Ingram fu la regina della festa. L'ha veduta, signora Fairfax? Mi dica com'è. L'ho veduta sì, ebbene. Le porte della sala da pranzo erano aperte e siccome era Natale, la servitù ebbe il permesso di riunirsi in anticamera per sentir cantare e suonare le signore. E il signor Rochester mi fece entrare e io andai a sedermi in un angolo tranquillo. Non avevo mai visto un simile spettacolo. Le signore indossavano abiti magnifici e molte, perlomeno tra le più giovani, mi parvero assai attraenti, ma la signorina Ingram era certamente la più bella. E com'era? Alta, sottile, con le spalle leggermente spioventi, il collo lungo e grazioso, la carnagione pallida ma chiara e trasparente, fattezze nobili e gli occhi un poco simili a quelli del signor Rochester, grandi, neri e scintillanti come i suoi gioielli. E che bei capelli aveva, neri come l'ala di un corvo, acconciati in trecce sulla nuca e tutti ondulati sulla fronte. Era vestita di bianco con una sciarpa color ambra attorno alle spalle che, annodandosi in vita, le scendeva fin sotto il ginocchio. Tra i capelli aveva un fiore della stessa tinta che contrastava bene con la sua capigliatura d'ebano. Doveva essere molto ammirata. Oh sì, non solo per la sua bellezza, ma anche per il talento. Cantò un duetto con il signor Rochester, accompagnata al pianoforte da un altro gentiluomo. Con il signor Rochester? Non sapevo che cantasse. Ha una bella voce di basso, sa, e molto gusto per la musica. E la signorina Ingram che voce aveva? Una voce ricca e piena. Ha cantato in modo delizioso. Ah, era un piacere starla ad ascoltare. Dopo ha suonato il pianoforte. Io non me ne intendo di musica, ma il signor Rochester sì, e l'ho sentito dire che la signorina Ingram era un'eccellente esecutrice. E una ragazza così bella e con tante qualità non è ancora maritata? Ah, sembra di no. Credo che né lei né sua sorella siano ricche. I beni di Lord Ingram erano vincolati e il figlio maggiore li ha ereditati quasi tutti. Mi fa specie che nessuno del suo rango si sia innamorato di lei. Il signor Rochester, per esempio, è ricco, no? Non è vero? Sì, certo, ma tra loro vi è una notevole differenza di età. Il signor Rochester è vicino ai 40 anni e lei ne ha soltanto 25. E che cosa importa? Tutti i giorni si fanno matrimoni in cui la differenza d'età tra gli sposi è ancora maggiore. È vero. Non credo però che il signor Rochester vi abbia mai pensato, ma lei non mangia nulla, ha assaggiato sì e no un crostino. Ho troppa sete per poter mangiare, vuol darmi un'altra tazza di tè? Stavo per ricominciare a parlare delle probabilità di una unione tra il signor Rochester e la bella Blanche quando Adele entrò e dovemmo cambiare discorso. Non appena fui sola però mi diedi a riflettere su ciò che avevo appreso. Guardai nel mio cuore, esaminai pensieri e sentimenti e con mano ferma cercai di ricondurre sulla via del buonsenso quelli che l'immaginazione aveva fatto smarrire in regioni senza confini né sentieri. Chiamata alla sbarra da me stessa, la memoria produsse le cause delle speranze, dei desideri, dei sentimenti che avevo nutrito dalla notte prima e spiegò lo stato d'animo al quale mi ero abbandonata durante le ultime 2 settimane. Poi si fece avanti la ragione e quando col suo tono pacato ebbe esposto le cose così come realmente stavano, dimostrando che io avevo respinto la realtà per pascermi avidamente di ideale, pronunciai questo giudizio. Una pazza più pazza di Jane Eyre non aveva mai respirato aura vitale. Una sciocca più sciocca e fantasiosa mai si era tanto abbeverata di dolci menzogne, ingoiando il veleno come se fosse nettare. Tu, mi dissi, la prediletta del signor Rochester, tu avere il potere di piacergli, tu avere qualche valore agli occhi di lui, su via, la tua follia mi disgusta. Tu hai costruito il tuo castello in aria su qualche occasionale segno di preferenza. Segni equivoci concessi da un signore ad una dipendente, a una bambina. Come hai osato, povera illusa! Il tuo proprio interesse non avrebbe dovuto renderti più saggia? Stamani hai rievocato nella mente la breve scena della notte scorsa. Copriti il viso ed arrossisci. Egli ha fuggevolmente lodato i tuoi occhi, non è vero? Apri le palpebre, piccola cieca, e mira la tua follia. Non è un vanto per una donna l'adulazione di un superiore, che certo non pensa far di lei sua moglie. Ed è pazza colei che si lascia accendere da un amore segreto, il quale, se non sarà conosciuto e corrisposto, divorerà la sua vita, e se invece lo sarà, dovrà condurla ignis fatuus in un pantano limaccioso e senza via d'uscita. Ascolta dunque, Jane Eyre, la tua sentenza. Domani ti metterai davanti a uno specchio e disegnerai con la matita il tuo ritratto fedelmente, senza attenuare alcun difetto, senza addolcire nessuna linea dura, senza trascurare nessuna spiacevole irregolarità. Sotto vi scriverai ritratto di una istitutrice brutta, povera e senza parentela. Dopo prenderai una tavoletta d'avorio, ne hai già una pronta nella cartella. Mescolerai sulla tavolozza i colori più freschi, più belli e delicati, sceglierai i pennelli migliori e disegnerai con cura il volto più grazioso che tu possa immaginare. Lo dipingerai con i più morbidi e dolci chiaroscuri, secondo la descrizione che di Blanche Ingram ti ha fatto la signora Fairfax. E non dimenticare i riccioli neri e gli occhi da orientale. Come? Sei tentata di prendere per modello il signor Rochester? Ordine ci vuole, non pianti, né sentimento, né malinconie, voglio solo buon senso e risolutezza. Rammenta i tratti nobili eppure armoniosi, il collo, il busto da statua greca, metti in risalto il braccio candido e rotondo, la mano delicata, non dimenticare né l'anello di brillanti né il braccialetto d'oro. Riproduci fedelmente la veste aerea e scintillante, la sciarpa color ambra e i fiori nei capelli, poi scrivi sotto la miniatura Blanche, giovane dama di nobile famiglia. E se in avvenire ti venisse in mente che il signor Rochester pensa bene di te, metti a confronto questi due ritratti e di' a te stessa: è probabile che il signor Rochester, se volesse, potrebbe ottenere l'amore di questa nobile signorina. Ma è mai possibile che sprechi un solo pensiero per questa povera e insignificante istitutrice? Lo farò, mi dissi, e dopo aver preso questa decisione mi sentii più calma e mi addormentai. Il mattino dopo mantenni la parola. 2 ore mi bastarono per schizzare a matita il mio ritratto e in meno di 15 giorni avevo terminato la miniatura di un'immaginaria Blanche Ingram. Il volto era riuscito assai grazioso e quando lo paragonai con il mio schizzo, il contrasto era così evidente che faticai a rimanere padrona di me stessa. Quel lavoro mi fece bene, perché tenne occupate le mie mani e la mia mente e rafforzò e fissò le nuove impressioni che desideravo stampare indelebilmente nel mio cuore. In breve tempo potei congratularmi con me stessa per gli effetti salutari della disciplina che avevo imposto ai miei sentimenti. Grazie ad essa fui in grado di affrontare gli avvenimenti che seguirono con una calma che, se mi avessero colta impreparata, non avrei saputo mantenere nemmeno apparentemente.